senti? Sì, si menea. Non so se ne ha spicci, non ne mandano pochi a lui sempre, perché si compra le sigarette, capito? La te tua ne hai? Io c'ho gli spicciolati anche grossi. Ma spicciolati, perché se non c'ho gli spicciolati non me ne l'hai, vieni. No, no, gli altri li sbriccio, gli altri li sbriccio. C'ho il collattore, te li metto nel collattore e te li sbriccio, bene va. Solo che il radio non è entrato, vabbè che oggi è domenica. Io quando hanno schiacciato la portata perché gli hanno dato da qui già praticamente configurato come era qua a casa, no? Sia come Mikey Gay come tutto. Gli ho detto vai e provalo così, se è troppo basso aumenti, se è troppo forte abbassiamo. E invece non avevo dubbi, è toccato abbassarlo leggermente perché mi sembrava, quando ha schiacciato la portante mi sembrava franco, capito? Quando schiaccia esce fortissimo. E niente, tutto lì. Va veramente bene, contentissimo, era di una contentezza quando è venuto qua a vederlo, allucinante. Sono contento perché le cose sono andate come volevo io, capito? Tutto lì. Va bene, si farà sentire stasera, lui la domenica, due chiacchiere già se le fa sempre. Dopo cena, ora di cena, già si fa sentire. Vabbè, robè. Ma sai che chiamiamo a Torino, sa che ci sia ancora lui. Torino, ci sei ancora? Tonino mi sta preoccupando. Tonino mi sta preoccupando perché ha detto Bianco ci sono i neri, che aspetta, non li prende più. Attenzione, Tonino attira. Qualcosa è successo, speriamo che stia andando tutto bene il controllo, perché e caramba, quando vedono queste antenne, questi si emozionano, capito? Ti smontano in mezzo alla macchina. Grazie a te, purtroppo. Mario, cos'è che ti può collegare di mettere? Non ti ho capito. Ti calcoli le altezze come ti ho fatto vedere io, glielo metti sulla piazza, cioè non come era prima sulla parte superiore dello scatolare, glielo metti di fianco, ti calcoli bene l'altezza, li metti bulloni passanti, li sotto i due buchi, il superiore e l'inferiore li metti bulloni passanti, così un domani che lo devi staccare o lo devi girare capovolto, va bene, non ne mettere boccoli, a parte che non hanno la stessa forza di un bullone passante, la capisci? Tutte le macchine nuove sono boccole filettate, ma cosa ti servono? Non riesco a capire l'utilità di questa roba. bucate, sono boccole, sono dei pezzi di ferro bucati in acciaio inox che passano dentro lo scatolato e dentro lì poi ci passa il bullone e vanno messi a pressione con la pressa, capito mi hai adesso? E quelli lì vanno attaccati giù dove c'è la regolazione del braccio del varicello. Stai parlando dell'anga, no? Pensavo stessi parlando che stessi mettendo le boccole per fissarti l'anga, infatti c'è una cosa simile. Ah, negativo. E poi ti dirò che anche lì se gli devo mettere il bullone passante in modo che quando stringi non si faccia la gomma, anche lì conviene mettergli le boccole. Fai due buchi e gli metti le boccole e poi dentro ci passa il bullone passante e stringi. E buonanotte, sì. Capretto mi hai? Vabbè, sono cose, diciamo, non c'è tutta questa forza, l'anga non è che deve fare tutta questa forza, va bene senza niente. Comunque se vuoi mettere un lavoro più sicuro, ma diciamo considerando il peso della barca, che la barca è sui rulli, non devi sollevarla a peso molto, c'è un carico di, sull'anga lo saprà un carico di 200 kg, 150 kg esagerati, in scorrimento, non è neanche in sollevamento, è in scorrimento su un piano rotante, per cui la forza che fa l'anga non sarà lì. Esagerando 120 kg, ma proprio esagerando. Perché con la pesca che con la barca pesa 120 kg. Non è pesa, infatti tu devi considerare, una cosa è sollevare la barca a peso morto senza niente, una cosa invece è sollevarla come adesso, su dei rulli, per cui l'attrito eccetera eccetera ti riduce lo sforzo dell'anga. Vabbè, quello sì. Comunque io penso che quell'anga non faccia una forza intorno ai 150 kg quando sta tirando la barca su, perché quando la stai togliendo dall'acqua gli viene in salita, anche se il peso effettivo scorre sui rulli, però il peso della barca c'è tutto. Capa, riprende Claudio. Le cose importanti, io ho dato più o meno delle dritte, diciamo, non è che siano al 100%, per cui vanno sempre viste al momento, quando è tutto puntato, cioè prima di bloccare tutto, facciamo le ultime regolazioni, mi avvicino un attimino e ti dico, fai così in modo che c'è una cosa definitiva, perché devi fare in modo che il carico non sia troppo alto né troppo basso sull'occhiale del carrello, che la barca sia equilibrata, il baricentro sia, non dico al centro dell'asse, perché ti verrebbe male, dovresti spostarlo con l'asse delle ruote, ci cerca una via, un compromesso diciamo, e poi l'anga deve lavorare perfettamente in orizzontale, allineato, non come stavo lavorando prima, che lavorava in posizione non ideale, deve essere tutto un lavoro in modo che c'hai meno sforzo tuo a tirare, meno carichi sul golfare della barca eccetera eccetera, deve essere una cosa morbida per sollevarla. Cappano, ma infatti io ho lasciato tutto quanto come l'hai lasciato tu. Pensa che dietro gli ho infilato pure il coso delle luci, là, gli ho messo tutto ed è pronto a fare quel lavoretto lì, così come mi sale in testa, l'aggancio alla macchina e posso andare, capito? È già bello che è pronto tutto. Cappa cappa. Vediamo se Torino c'è ancora. Torino ci sei ancora? Attento Torino. Subito. Sì. Ah. sono lì che tindano, tipo gli stressanti. No, non no, no, no, gli stressati ce ne hanno voi. No. Poi che per l'ABS. Agostino, mica c'è il Luca che c'ha spiccioli. Cioè, oh, Agostino! Quello sì, ma appunto c'è cioè, tu per caso? C'è i bucatini, ti piace fare il bucato, poi qua le porte parli del buco. Buchi sempre, è vero? Luca! Colmia! Ma non mi ascoltavi tu quando stavo parlando? Io ti sentivo basso, però ti chiamavo, però tu mi dicevi, ti ho sentito robe, però no, forse non mi sentivo. No, perché c'era qualcuno che chiamavo, cioè, quello è un po' il segnale che si arriva, sicuramente lo vedi tu. Ma se lo vedi tu. No, qui cazzo. Non mettermi in gomma, perché... Senti mattino, basso, fino a ci arrivi da me. La distanza è un po'. Un bel po' di più, ecco. Gianni dov'era? Lo sentivo un pochettino, ma Gianni in movimento era. Se non sbaglio la sto casa sua. No, la fermo. Mette un po' se tu Gianni. Però a partettino forse il più forte di tutti era Mario, che arrivava Mario. Luca! Ma come questa cosa che sto mettendo nel pensiero? Ho trovato il medico poco fa, ma detto che a me pensare fa male. Dice che mi fa male, che mi interessa. Non so. Tu puoi metti violente e cavallate in tasca, vuoi che ti passa lo stress? Ah, hai fatto. Allora? Vabbè, faccio come dici tu, va. No, mi guarda, ti guarda, stai vicino, stai giù, ti passa tutto. Ma tu dici quello c'è l'appunto? Come l'appunto? Io appunto non ne ho, no. Io ce l'ho a virgo, manca. Sei tu quello che aiuta, non so, mi sono qualche parente a fare bucato, che mangi bucatini, non sei tu? No, quello è amico mio. Questo è Agostino, Luca. Cappa dell'osmetro. Agostino, con Agostino lo conosco, io lo conosco, Agostino. Vabbè, lui si chiama Agostino, no, Agostino. Agostino. Allora. Ci guardiamo quel programma che taglia uno. Trovati male un bel ciuppa! Quello di cosa? Come si chiama? Dimmi, lo ricorda a me il nome. Quello di Tre Sabbi, dai. Ma cavolo si chiama. Colorado Caffè. Ma qualche volta di sfuggita, ma non è più di tanto, dai. Qualche volta mi guardavo un zero, ma non è che perché ci sono troppe gente che non mi piace. Qualcuno era simpatico, ma non mi piace, non mi piace assai. E mi guardano il tuo programma in Mabucca e ogni tanto qualche pezzettino ti vado a droppare lì. Ma quel programma è un po' esagerato, un po', è un programma, ma mette la macchina di ammazzati lì, per carità, io ce n'è andato. La macchina, anche di macchina che dice questo sono fatto per te, Teo, non hai visto i coliscini? Sì, la trattata è un po' esagerato quel programma. Oh, scusate, mi alzo per me un attimino. D'accordo. Lo spino. Come te che si chiama? Porco spino? Ah, lo spino. Positivo, K dell'ogeno, K. Lasciamo lì, adesso stessi no. Ma vai, non mi dà, lasciamo adesso. Ma saliva, se non sale più. Attento, Tony. Sentivo questo raschiare, capito? Ha detto, ma vista la mia, l'ho vista perché la vedevo, perché c'avevo il sole di fianco, e camminando a 130 col camioncino, ha visto la canna da pesca come si fa quando c'è pesce che ammucca, e così era l'antenna mia. Tu figurati, mettendola nella macchina che ha la capota che rimane liscia, cosa doveva fare la camminare indietro tu 40? A dire, dici Marulu con l'antenna, e magari c'è mi dici pure qualcuno, meglio niente. Nel camion va bene perché l'ha incastro tra il salvo la cabina e la cabina, no? Gliela metto attaccata al salvo la cabina e incastrata tra uno e l'altro, in modo che anche se va a fare porta rimane incassata e non me la perdo, perché sennò quando la mettevo sulla cabina, se ce la portava via il vetro, la trovavo sempre dentro il cassone. Un po' di 2 settellate, scavagava. Ehi. Ciao, qua. Ciao, Natà. Ci sentiamo dopo. Fatti vedere la limite lunedì, domani, che tiro quella roba. Dai, ci sentiamo per radio, ciao. Sì, l'ho già detto al salvatore, domani mattina lo facciamo il lavoro, devo fare a lui. Scendiamo la testa. Non servono a niente, facciamo una capsula dinamica, che non serve un cacchio, allora. Non serve a niente. Tu quando vedi tanto più 3 a 40 euro, allora compri dal volo. Ma a me non serve a nulla. Se non io, c'è una voce maestrale che fa schifo. Oh, c'è questo ICOM pure. Che cosa? Che ICOM è? SM8, SM6, SM20, che ICOM è? No, mancano 2 ore, SM5, perfette condizioni, microfono a tavola, sono in perfette condizioni, vedete che funziona, nel caso di avete necessità di ricevere delle lucidazioni, vabbè, sta funzionando, attenzione, è nuovo comunque questo apparecchio. Fatto l'SM5, tu immagini, l'SM5, c'ha 30 anni del microfono, vabbè, loro di voi sono andati a te a comprare. Io ho avuto l'SM6 che è superiore a quello, l'SM8 adesso c'ho l'SM20, l'SM5 non è neanche preamplificato, prende l'alimentazione diretta e funziona solo con le radio ICOM, non ha nessuna amplificazione, un microfono normale da base, flessibile, fine fine, piccolo piccolo, uno schifo, è gran per sé, ovvero. E c'è il Resonance, il Shure 444, niente, Vesta Delta, con l'adattatore pericolo, il C706, 25,50. Cioè, in un ICOM, cioè nel radio di questo genere, metto Saletta, aiuto, con la mancia accettiamo l'occhio già. Tutti la cortina, vabbè, sto leggendo, io non so preoccupare di nulla, MC50, 59 euro. Il 50 è prima del 60, non serve a niente lo stesso. Vita della guerra, microfono Iaesu. Canne F2, fluso da Palmo, 36 euro. Canna F3B 80 euro, cioè. Ah, però l'ho perso io, questo è quello nero, quello grigio che l'ho perso io per pochi secondi, cioè 40 euro e 50, visto 80 euro però. Questo poi c'è questo ICOM ICSM2 da tavolo per ICOM, 21,50 euro. Grazie Rosi, sei conosci Robert? Grazie Rosi, sì. Ora lasciamo mettere, non mi ricordo il titolo, capolo. Qual è fatto? Aspetta. Knock Never Zor, Bucci, Knock Never Zor. Sì, ma non è loro la canzone. Sì, vabbè. Chiappa. Di Babu di Dale, mi sono una tariffa, ti interessa un 9,40, questo è buono, 2 ore e 12 minuti mancano. Piace 9,40. Stupendo Kemu di UTS 9,40 a SAT, accordatore automatico incorporato, alimentatore incorporato, copertura continua da 0 a 30, 100 watt, collegato di microfono fa male Kemu di MC42, completo di doppio imballo originale, ma la usa in inglese. La parte è un ottimo stato elettrico ed estetico, fusato al 100%, apparato revisionato e rialleato nel 2005, nonostante gli anni è ancora uno dei migliori apparati per l'HF in circolazione, ricezione ottima, durazione eccellente, apparato che si presenta da solo. Il video, la foto non è in Revit, l'altra riguarda il suo apparato, che aveva un massimo di obiettivo. Però 750 euro, cioè, ci sono 21 offerte fatte in un gotto di chi sta parlando, è arrivato a 750 euro. Oh, è partito da 100 euro. 21 offerte, ci sono 2 ore e 11 minuti mancano, vedo che sa fare nella lavoro. Sì, è bello anche a vedersi. Guardate, c'è la Claudio 9,40, no? Sì, è bello a vedersi pure. Allora, beh, se lo vuoi dire io sto parlando, io l'ho visto solo, non lo posso usare. niente. Il circuito integrato per integrare il KEV di 440 per mettere la gestione del motore al computer, va bene, la frattura. Quando dice la cosa, la fusata 35 euro, la giù, a quello di giù delle cose che è un ladro 45. Ah, un TS50, non sai quanto costa, questo è Macu, 650 euro. Ah, un 940, che mai costa tanto un 940 questo, ma questi sono Macu. Diciamo la fisarmonica, non era gruppo, non lo so, con una bella. È troppo triste. Buonasera, mi hai sentito? auguri, No, però, sono andato a ufficiale toccare, ci mancherebbe, ma il prossimo inserito. Per forza inserito ed è anche al minimo, ma ti faccio la prova, intanto basta che mi dico una merletta e posso usare sempre anche l'altra, non c'è problema. Aspetta che saluta Mario e poi facciamo questa prova. Va bene, lascialo stare così, diretto, lascialo così. Lui, mi sembra tanto lo ascolti. Allora c'è veramente problemi con la radio. Mamma mi sembrava, hanno volato a Valentino prima di averlo sentito, infatti l'ho voluto. Ma cazzo, ho messo dove fare la bocca. Vai, ti prova a vedere se lo vediamo. No, aspetta però, devo girare un tantino ma devo accendere, non c'è altra roba. Ok, sto usando l'alimentatore, quello a 28 ampere, ho visto che ce la fa bene a tenerlo, l'SM8 che è quello inferiore all'SM20 e lo abbinai per questioni di prezzo, questo metro l'ho fatto mai, io non lo metto 500. E quindi senza l'adattatore gli avevo invertito le connessioni. Quindi l'SM8, che è quello flessibile come l'MC80, sul 430 della Kenwood, quindi prima del 440. Beh, tutti rimanevano così perché io non ci credevo. Allora, insomma, facevo la prova, passavo in modo laterale, la M era una cosa allucinante, spingeva come una bestia, anche perché in quel periodo radio belle belle assasse non ce n'erano. Io uscivo con questo microfono e tutti mi dicevano, ma che microfono è? C'era un SMC della Icom abbinato su 430. Tutti volevano fare queste cose, però sai, l'SMC costava, allora quando l'avevo comprato io, mi pare che costasse a quei tempi, nell'86-87, penso intorno ai 250.000 lire, 270.000 lire. E quindi sai, non tutti magari si potevano permettere quella spesa e quindi nessuno aveva questo tipo di microfono, in città ero l'unico. Però poi quando io ho dato il 430, giustamente, chi l'ha visto, chi l'ha sentito modulare, ha voluto anche il microfono. E non ne ho più fatto di quegli abbinamenti. Sono sempre andato con l'MC60, cioè microfoni di linea. L'altro giorno mi sono ricordato, ho detto a Franco Delta 1, che mi ricordo che aveva un SM20, ho detto fra, guardami, che proviamo un SM20 sul 440, volevo essere si abbina bene. Ma è una cosa trepitosa, molto molto bella veramente. Poi leggermente, se non sollevi molto la voce, leggermente, ma un pelino, proprio anche appena appena più su, così Luca si rende conto di cosa spinge, ma un pelino è ad arrivare proprio a meno di due, dai. Guarda, adesso lo provo a spostare, ma un pelino è Luca. Ho spostato un pelino, non so, forse ho aumentato troppo adesso. Ah, già va bene, insomma, sono tutti dei problemi, non devi stare a fare regolazioni. No, comunque, non lo so, cavolo, non esagerare, il più forte di te, non esagerare. Beh, non ho detto, cioè, secondo me la più forte che c'è di te è la tua, secondo me, poi secondo gli altri non lo so. Poi Cettino, anche Salvatore lei va bene l'ultima settimana, Franco, Antonio Riserva, l'ultima gara anche lui. Comunque la migliore che c'era più forte la tua. Oggi ha detto, perciò no. Cioè qua da me, poi dagli altri non lo so. Siamo tutti con quel tipo di microfono, però diciamo che quella di Salvatore, con questo abbinamento Icom Kenwood, una modulazione molto molto bella, soprattutto con la sua voce. La puoi lasciare così se non gridi, e sentivi sempre una distanza microfonica, te l'ho detto. Non te devi avvicinare perché quei tipi di microfoni tu puoi parlare rilassato, bassa voce, tranquillamente, così come sto parlando io. Io sto parlando come quando parlo in verticale, non come quando uso un microfono amplificato da palmo di quelli da 4 soli che devi gridare per farti sentire, capito? Rilassatissimo. E lo puoi lasciare anche così, non c'è problema. Mario, riprendi, mi allontano un secondo a prendere la sigaretta. bene così, perfetto. Ok, la felice ti trattieni, dopo ce la rientro. Sì, ciao. Va bene, ok, allora niente, passo in correnti che allora, a mettere qualcosa sopra la sezione dello stomaco. E poi già ci sentiamo più tardi, dai. Ok, le lancio, niente, le lancio a Roberto e fare girare per gli altri, Robe, ci sentiamo poi.